Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi di notizie ce ne sono parecchie. La prima è quella che di fatto apre allo scambio automatico delle informazioni contro i grandi evasori. Già, perché ci sono i piccoli, i medi evasori, ce ne occupiamo soprattutto a livello nazionale. Poi ci sono quelli che sono, diciamo, dei grandi navigatori nell'arcipelago delle regole europee. Dunque molte società che spostano di volta in volta, naturalmente spesso nel pieno rispetto della legge, le possibilità, i loro introiti, i loro affari. Bene, un tema su cui l'Europa di fatto soffre da tempo, perché questo significa perdere grandi introiti. Oggi una decisione che riguarda il tax rulings, decisa al termine dell'Ecofin di questa mattina. Sentiamo tutto da Beda Romano. Dopo 7 mesi di trattative, i 28 ministri delle finanze dell'Unione hanno trovato oggi qui in Lussemburgo un accordo per consentire lo scambio automatico di informazioni sui generosi accordi fiscali che i governi hanno concesso negli anni a molte imprese europee e americane. I tax rulings, come si chiamano in inglese, sono accordi ad personam nei quali i governi concedono intese fiscali favorevoli a specifiche imprese internazionali. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan, è di imporre maggiore trasparenza e lottare contro l'elusione fiscale. Il provvedimento legislativo giunge dopo una serie di scandali che hanno coinvolto alcune grandi imprese americane accusate di spostare profitti da un paese all'altro per pagare meno tasse. La decisione di imporre maggiore trasparenza rientra in una tendenza internazionale alla lotta contro l'evasione fiscale. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Quindi una decisione importante. Fu proprio il presidente della Commissione Juncker in qualche modo a iniziare il suo mandato intorno a uno scandalo, lui da ex primo ministro del Lussemburgo, ad essere appunto accusato di avere di fatto realizzato all'interno del suo paese quei meccanismi che poi sono stati denunciati e oggi per la prima volta affrontati. Dunque ci sono le basi per un forte recupero di evasione, di lotta all'elusione, e si compie un ulteriore passo avanti per la trasparenza in Europa. Questo è il commento del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che oggi presenta anche appunto in ambito europeo la sua proposta al sistema di assicurazione contro la disoccupazione ciclica, che evidentemente colpisce in questa fase in maniera particolarmente dolorosa l'Europa, ma che è una costante di squilibrio dei meccanismi economici. Il servizio. Un sistema di assicurazione contro la disoccupazione ciclica nella zona euro, un assegno continentale per proteggere temporaneamente e a integrazione degli ammortizzatori sociali nazionali chi resta senza lavoro. La proposta arriva dall'Italia ed è lanciata dal ministro dell'economia Padoan. Un sistema che potrebbe essere finanziato da risorse comuni e potrebbe essere fatta senza cambiare i trattati, quindi anche subito se c'è la volontà politica. Ricordo che questo tema fu discusso già all'Ecofin informale di Milano quando c'era la presenza italiana, ne ho parlato bilateralmente con alcuni colleghi, ma io mi auguro di poterne parlare con tutti e quindi di lanciare nell'ambito del dibattito del rapporto dei 5 presidenti anche questo tema. Secondo indiscrezioni, il benefit potrebbe durare tra 6 e 8 mesi, rimpiazzando tra il 40 e il 50% degli stipendi dei lavoratori, e darebbe sollievo temporaneo ai paesi colpiti da shock che generano più disoccupazione del gestibile, poi sarebbe sospeso. Un meccanismo dunque che permetterebbe in via temporanea di traghettare chi è rimasto disoccupato verso un nuovo lavoro, ma che avrebbe anche un forte significato simbolico. È una estensione a livello di unione monetaria di meccanismi che a livello nazionale già ci sono, però il valore aggiunto sarebbe il fatto che si riconosce che è un problema europeo e non solo di un paese. Questo ha un forte significato sostanziale, ma anche un forte significato simbolico, perché ci ricorda che l'unione monetaria non è solo moneta e banche, ma anche politiche per la crescita e il lavoro. Tuttavia c'è già chi lo critica, in quanto il meccanismo potrebbe scoraggiare un paese a portare avanti riforme strutturali del mercato del lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ancora, la magistratura europea ha rimesso in discussione gli accordi tra Stati Uniti ed Unione Europea nella gestione della privacy su internet, definendo illegale l'intesa di 15 anni fa, il Safe Harbor, che regolamenta il trasferimento di dati sui due lati dell'Atlantico. La sentenza, che segue di qualche giorno il punto di vista dell'avvocato generale Yves Bot, potrebbe permettere il blocco del trasferimento dei dati personali degli utenti utenti di Facebook e di altre reti sociali. Ecco una questione che sollecita l'immediata reazione da parte di Facebook. Da Dublino dice: è fondamentale, dice la società americana, è fondamentale che l'Unione Europea e il governo degli Stati Uniti continuino ad assicurare metodi affidabili per trasferire in modo legale i dati e risolvano ogni problematica riferita alla sicurezza nazionale. Così un portavoce di Facebook, che ha comunque voluto aggiungere: in ogni caso il comportamento della società non è mai stato scorretto. E con questo direi che è tutto per Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.